Emergere dall'isolamento, scoprire la moltitudine. TDN, 17 aprile. Report riunione domenica 12 aprile. Lo scoppio dell'epidemia di Covid-19 nel nord Italia è coinciso con l'8 marzo. Parziale e sintetico, perché verso la fine della riunione mi si è bloccato il PC, che ho dovuto riavviare, perdendo di conseguenza la nota con gli appunti. No prob, anzi, grazie per farlo. La giornata dello sciopero transfemminista globale. Sono state proposte alcune priorità per i lavori da svolgere. Installare un fallback sullo stream con un jingle, per evitare che lo stream cada tra una trasmissione e l'altra. È stato installato da Dan. A causa della quarantena decretata per contenere il contagio, il movimento Nonuna di Meno ha dovuto annullare la maggior parte delle mobilitazioni che aveva in programma, incluso lo sciopero che sarebbe dovuto avvenire il giorno seguente. Creare una redazione tematica settimanale, di modo da armonizzare settimanalmente le tematiche tratte nel palinsesto. Per questo, Nonuna di Meno Milano ha organizzato una serie di iniziative alternative dislocate, alcune offline, come azioni mirate su edifici e monumenti, altre online. Bisogna ancora procedere e soprattutto va creata una redazione. Per esempio, una delle iniziative è stata quella di aprire una web radio, Radio l'8 marzo, per seguire le giornate di lotta, permettendo a tutte le persone, in particolare coloro nelle categorie a rischio per l'emergenza epidemica, di accedere e di partecipare allo. I podcast sono uno dei dispositivi di ampliamento del pubblico più importanti che abbiamo. Serve sviluppare una strategia per la loro promozione. Bisogna ancora capire chi se ne occupa. Ascoltando e o inviando contributi audio. Finito lo sciopero, la radio di Nonuna di Meno Milano ha deciso di continuare a trasmettere per tutta la durata della quarantena. La programmazione giornaliera non è in home page, ma non è pensabile aggiornarla a mano quotidianamente. Beh, ma se è pensabile farla a mano e mandarla in chat, tanto varrebbe metterla sulla home page direttamente. Anche a partire da questo esperimento, Macao, con la collaborazione di gruppi, movimenti territoriali e transnazionali, ha deciso di attivare Radio Virus, una web radio pensata per essere un collettore di strumenti digitali per dare a quanti più corpi la possibilità di far sentire la propria voce. Serve escogitare un metodo per pescare automaticamente da uno spazio dove già aggiorniamo la programmazione. Tutto da capire. Una piattaforma per interagire con questa fase di distanziamento fisico e isolamento domestico forzati. Technicalities, fallback, fatto, libre time in sospeso, spostamento hosting di Radiovirus dallo spazio web di Macao, come procedere? Creazione di un database. Trasmettiamo in diretta e in differita da voci unite dalla rete digitale. Dan, 17 aprile. C'è bisogno di capire chi fa cosa. Si capisce meglio guardando a. L'aspetto fondamentale di Radio l'8 marzo e di Radio Virus è la tecnologia. Ad esempio, non esaustivo, nessun ordine. Chi fa una trasmissione? Queste esperienze, infatti, si appoggiano a infrastrutture digitali autonome, nello specifico messe a disposizione dall'HLAB Unit, che garantiscono una gestione trasparente di dati e privacy, ma anche la possibilità di mettere le mani in pasta, ovvero di aprire quelle macchine solitamente percepite come delle black box, delle scatole nere, il cui funzionamento è apparentemente. Chi manda in onda una trasmissione? In questa fase di quarantena, infatti, crediamo sia fondamentale riappropriarci degli strumenti utili a far sentire la nostra. Chi si occupa dell'infrastruttura? La regia di Radiovirus è distribuita tra le case di chi vi partecipa e il palinsesto si compone attraverso il connettersi e lo sconnettersi compulsivo delle Chi si persone. occupa dell'organizzazione? Questo implica una formazione comune di base che viene trasmessa per passaparola, ovviamente virtuale. Chi si occupa della comunicazione? Ci sembra che questo aspetto stia accelerando processi di autoformazione e di sperimentazione comunitaria e stia generando nuove possibili cartografie relazionali con le tecnologie. Chi si occupa di farci stare bene, la vasca da bagno? Chi si occupa del palinsesto? Un saluto a tutte le persone presenti e in ascolto qui a Centrale Fies e sul sito di In Between e di Radio Visus, che saranno gli spazi e le dimensioni di questa diretta radiofonica. Io sono Claudia D'Alonso e sono la curatrice di In Between, che è una rassegna sul rapporto tra corpo e tecnologie che fa parte della programmazione annuale di Centrale Fies in questo nuovo formato che si chiama XL e in particolare di questo secondo weekend della parte estiva che è Hyperlocal. Ruberò poco tempo con questa introduzione perché avremo una conversazione estesa tra Anna, Raimondo e Elena. E, Però voglio fare un po' di ringraziamenti a tutto il gruppo di Centrale FIES, in particolare a Barbara Boninsegna e Virginia Sommadossi, che hanno ispirato, accompagnato e stanno continuando ad accompagnare questo processo di questa rassegna, che terminerà ad ottobre con cadenza più o meno mensile. Quindi a tutte le persone che hanno collaborato alla rassegna e stanno lavorando alla programmazione di Centrale FIES, poi le tre voci o le tre entità che ascolterete nel dialogo di oggi, con le quali però avremo modo di approfondire e continuare con i ringraziamenti, poi Radio Virus, che è la radio che sta rendendo possibile questa diretta, in particolare Federico Aldovisi e Federico Neirotti, che stanno facendo la regia da Milano. Questa diretta è quindi dislocata in molti spazi e molte dimensioni dello spazio, quindi qui a Centrale FIES, la regia da Milano, altre voci che ascolterete da Marsiglia e da Bruxelles. Radio Virus è una radio nata da Radio l'8 marzo, che è stata una delle iniziative di Non Una Di Meno Milano in occasione dell'8 marzo transfemminista del 2020, che a Milano ha corrisposto con l'inizio del lockdown. Per cui è stata una risposta all'impossibilità di occupare gli spazi con i corpi fisici. Appunto il rapporto tra tecnologia e corpo è il centro del tema della rassegna di In Between, che è un tema molto ampio con moltissime declinazioni. Tra le declinazioni e tra le domande un po' che si pongono nella relazione tra corpo e spazio, e quindi la relazione tra l'altro tra spazi, ambienti intesi anche come ambienti di relazione, c'è la questione come dire, cosa dico, cosa nomino, cosa posso, in che modo posso declinare la domanda dove sono, dove mi trovo, cosa che è resa molto complessa dalla condizione attuale, ma in realtà da molti decenni, determinata dalle tecnologie. Oggi siamo in una diretta radiofonica, la radio è stato il primo medium che ha reso complesso e articolato il rapporto tra vicinanza, distanza e presenza. E in questa declinazione, in questo tema così ampio, ci saranno dei riferimenti in questa conversazione a molti filosofi, a molte filosofe, a molte letture, tra queste ad esempio una lettura qui che mi è molto cara, Il corpo utopico di Michel Foucault, che tra l'altro nasce come contributo da un programma radiofonico, anzi nasce come programma radiofonico, e di questo contributo una cosa che mi è molto cara è il fatto che si ribadisca il fatto che il corpo in qualche modo genera ed è la sede di tutti gli altrove, intesi in molte dimensioni. Tra le varie dimensioni di questa relazione c'è la questione, ovviamente ci sono molte implicazioni che hanno a che fare ad esempio con delle dimensioni fenomenologiche, di fenomenologia dei sensi, della percezione, ma molte di carattere biopolitico, e questo incrocio è un po' quello di cui parleremo anche oggi, o comunque genera un po' l'invito a queste voci che ascolterete oggi. La voce sarà il vettore di questa diciamo apertura agli attraversamenti, quindi in una dimensione che supererà o che vuole superare, intende superare tutti i binarismi, i confinamenti. Lascio la parola da stra pochissimo, soltanto su questa cosa torneremo. Stiamo facendo una diretta radiofonica in una dimensione piuttosto anomala, anche perché è molto, diciamo, abituato a fare dirette radiofoniche, perché in genere è molto strano che si sia così tanto dislocati. È forse anche un po' una testimonianza di una condizione che insomma stiamo vivendo, abbiamo vissuto, e quindi ci potranno essere problemi, anzi probabilmente avremo dei problemi tecnici più di quanti ce ne siano in genere, e per cui insomma magari potremo chiedervi supporto, insomma, per creare ulteriore relazione nella gestione di questo tempo e di questi spazi che stiamo condividendo. Lascio la parola ad Elena, Anna e Raimondo, grazie, e tra poco ci risentiremo. Ciao a tutte e a tutti. E come ha detto Claudia, siamo Elena Raimondo e Anna. E speriamo che ci sentiate bene. E dovunque voi siate, a Centrale FIES in questo momento o in ascolto su Radio Virus, forse poco a poco indovinerete chi è chi, o forse non ce ne sarà neanche tanto bisogno. E non è la prima volta che ci incontriamo nello spazio radiofonico, come in realtà in tanti altri spazi che sono fisici, affettivi, teorici, e questa diretta radiofonica è la tappa di un dialogo che abbiamo iniziato da alcuni anni e che ci nutre nelle nostre traiettorie. Ma dobbiamo confessarvi che, come accennava Claudia, è la prima volta che facciamo radio insieme senza poterci guardare negli occhi, senza poter fare un segno in regia a Federico che è il momento, per esempio, di mettere sulla musica, senza poter ascoltare neanche i suoni che mandiamo e senza potervi intravedere, perché sappiamo che siete lì seduti, almeno voi a Centrale Fies, e quindi questo, vi ammettiamo, è una vera sfida. Per questo aiutateci, dateci un segnale sonoro della vostra presenza. Lo so che fa un po' villaggio turistico, però al mio tre, per favore, vi manifestate con un urlo. Super, grazie, grazie mille. Cambia un po' tutto ora perché appunto non siamo così isolate come sembra. Benvenute e benvenuti in Ascoltare Attraverso. Sì, benvenute. Beh, in effetti siamo in uno spazio veramente ibrido ed è vero che Claudia ci ha invitato per cercare di fuoriuscire dallo spazio online e attivare dei processi nello spazio fisico. E in realtà questa diretta parte da degli esercizi e partiture di ascolto che abbiamo scritto un paio d'anni fa con una prospettiva di genere e li pubblicheremo sul sito di InBetween e vi invitiamo a metterli in atto quando volete e se volete durante l'estate. Ci sembravano utili per riconnetterci al corpo e allo spazio pubblico in questo momento preciso, dopo che i nostri corpi sono stati confinati e atomizzati. Uno parte dallo spazio intimo di una cavità corporea, la vagina, mentre l'ascolto vi inviterà a risuonare nello spazio urbano. E fra questo spazio corporeo e quello pubblico abbiamo costruito un percorso di suoni, voci, riflessioni, di domande aperte. Quello che vi proponiamo in realtà è una sorta di metaascolto. Durante la prossima ora, infatti, ascolteremo insieme riflettendo al modo in cui lo facciamo. E per farlo ritorno alla citazione che ha menzionato Claudia anche nella presentazione e nell'introduzione, la famosa domanda di Michel Foucault: da dove parli? E a noi in questo contesto piace un po' parafrasarla, adattarla al contesto. E quindi vi chiediamo e ci chiediamo da dove stiamo ascoltando? E forse possiamo parlare anche di ascolti situati, riprendendo Donna Haraway, perché la nostra prospettiva di ascolto è parziale, provvisoria e incarnata, e reclamiamo che questa parzialità sia proprio la sua forza. In effetti, la domanda da dove ascoltiamo penso sia uno strumento utile a situarci in questo contesto e naturalmente per dove non intendiamo il punto geografico dal quale ascoltiamo, anche se comunque non è un dettaglio, come diceva sempre Claudia all'inizio, che in questo momento siamo tutte un po' disseminate, ma ci riferiamo alla posizione simbolica, che occupiamo mentre ascoltiamo. E magari comincio io vi parlo da Marsiglia, la città che mi ha accolto da più di 5 anni. Ascolto in questo momento i rumori della mia corte e dei suoi abitanti che sono diventati molto familiari durante il lockdown. Ascolto e vi parlo in quanto donna cis, cresciuta in Italia, che ha attraversato delle geografie diverse, ma ha sempre vissuto in Europa e che quindi forse non ha ancora, come dire, completamente decostruito il suo sguardo eurocentrico. Ascolto, vi parlo come lavoratrice della cultura indipendente precaria e come voce che pratica la radio e che immagina la radio proprio come uno spazio di condivisione. E vi parlo anche come femminista e in questo campo con il mio collettivo e altri collettivi alleati cerchiamo di difendere un femminismo inclusivo, intersezionale, decoloniale e non abolizionista. E oggi vi parlo in italiano, che è la mia lingua madre, ma che uso sempre meno, e che è anche una base forte di condivisione tra di noi, oltre al fatto che tutte e tre viviamo e abitiamo fra delle lingue multiple, e questo in qualche modo sposta anche la nostra identità. Io invece vi parlo da casa mia a Bruxelles, anch'io nella mia lingua madre, l'italiano, che ormai non è più la lingua di tutti i giorni e forse vi avverto, a volte ve ne accorgerete. Per il resto preferirei che voi decidiate che genere attribuirmi se ne avete voglia. Indovinare il mio accento non è troppo complicato, ma comunque vi chiedo di farlo se ne avete voglia. Indovinare la mia età, il colore della mia pelle e ascoltando la mia voce, per esempio, immaginare il mio naso e i miei capelli. Perché secondo me questo è proprio il bello dell'ascolto radiofonico, provocare i nostri immaginari, in questo caso i vostri, attraverso questa forma d'ascolto radicale. Tornando ancora alla domanda da dove ascolto, io devo confessarvi che la mia pratica di ascolto è intimamente legata alla radio e al femminismo. Sono diventata femminista in radio, nell'area della Mujer di Radio Vallecas a Madrid, un collettivo di giornaliste con prospettive di genere, era il 2008 credo. Oggi, anche se non mi definisco più giornalista, continuo a fare radio come in questo momento, a produrre ascolto in diverse forme, in diversi contesti, e continuo ad essere femminista. Anzi, oggi mi definisco transfemminista. Qualche anno fa ho cominciato un dottorato che cerca di esplorare forme di ascolto di genere e quando sono diventata femminista, infatti, tutte mi parlavano degli occhiali viola e della prospettiva di genere. E poi un giorno io mi sono detta che preferivo piuttosto riflettere sulle mie orecchie viola e sull'uso che posso farne per emanciparmi dagli schemi binari. E quindi mi sono cominciata a chiedere in maniera un po' più ossessiva, per esempio, come il sistema patriarcale abbia condizionato il mio ascolto e la mia voce, per esempio. Perché anche la voce è costruita socialmente e avere una voce come noi in questo momento, con questo microfono, significa anche avere uno status simbolico che ci permette di prendere parola e questo status, come la maggior parte degli status, è distribuito in modo assolutamente inegualitario. Ma anche se stasera parleremo tanto, abbiamo scelto l'ascolto come territorio di indagine e d'azione anche, e ascoltiamo per attraversare corpi, spazi, generi, confini e categorie monolitiche. Attraversare come il suono sa fare, trasmettendosi come vibrazione da un corpo all'altro, da uno spazio all'altro, da una materia all'altra, e così ci insegna che tutto è fluido, che è mobile, poroso, molteplice e sempre, sempre, sempre, sempre, sempre in relazione. Eh sì, l'ascolto anche per me ovviamente non è una pratica di autoidentificazione e di consenso, e tengo soprattutto a specificare che per me l'ascolto non è mai passivo. L'ascolto secondo me è una prova di curiosità e può essere anche una prova di coraggio in alcuni casi. È una pratica che per quanto mi riguarda mi confronta con la costante vulnerabilità e con gli stereotipi con i quali devo continuamente negoziare per interpretare il mondo. E a proposito di interpretazione e ascolto, vi vorremmo proporre un estratto sonoro e chiedervi cos'è secondo voi. Vai Federico! Avete ascoltato le vibrazioni di una vagina, e per essere specifiche della mia vagina. Da femminista ricordo che uno dei primi consigli era quello di guardarci allo specchio, di esplorare la nostra vagina osservandola. E un giorno mi sono chiesta, e se invece di essere guardata la mia vagina mi stesse chiedendo di essere ascoltata? Da lì è nata questa idea dell'ascolto vaginale, un ascolto che riscatta suoni quasi inaudibili e che accoglie e genera silenzi, all'interno dei quali inventare per esempio nuovi linguaggi, nuovi scenari, spazi in cui esprimere piacere, paura, istinto, oltre il linguaggio patriarcale e oltre i sistemi interpretativi che ci vengono imposti. Avete quindi ascoltato il mio primo vaginal speech? E a questo proposito sento comunque di dovervi chiarire una cosa. Per me avere una vagina non è ciò che determina l'appartenenza ad un genere. Il volersi e sentirsi, identificarsi in una donna, ma non posso evitare di pensare al fatto che io stessa ho una vagina e non posso evitare di pensare a tutte le vagine del mondo, quelle che ancora per esempio soffrono mutilazioni e violenze, quelle che scioperano per i propri diritti, non posso evitare di pensare come ancora oggi sia difficile pronunciarne il nome a voce alta in pubblico e qui chiedo di nuovo la vostra complicità. Provate a ripetere dopo di me la parola vagina, ripetetelo quante volte vi va, provate a dirlo ad alta voce, vagina, vagina. Vagina, vagina. È una specie di mantra, mi piace molto come l'avete orchestrato, sentivo una specie di mantra con questo nome. E quello che mi va di chiedervi è di notare la sensazione che avete provato nel dire vagina. Vi siete guardati sorridenti, complici, avete guardato per terra, avete guardato piuttosto con gli occhi rivolti al cielo. Come vi siete sentiti nel pronunciare questa parola? Perché spesso intorno a me è ancora un tabù. Questa è soltanto una delle proposte che troverete negli ascolti vaginali che saranno appunto pubblicati presto sul sito di InBetween e che mi invito a realizzare, a sperimentare. Vagina, vagina, vagina, ci provo anch'io. Io forse sono più legata ad altre parti del mio corpo, ma ascoltare la tua vagina, come la fai parlare in vaginal speech e anche come ne parli mi fa pensare... che come la voce anche il corpo è sempre marcato dalle relazioni sociali e che è ancora un territorio di lotta. E ascoltare la tua vagina mi fa anche pensare che il corpo non è una materia inerte, ma che è fatto di risonanze, di rinvii, che non ha frontiere, ma che è in continuità con il mondo e gli altri esseri viventi. Ma vorrei anche tornare alla parola donne che anche io ho usato per situarmi, ma che ovviamente anche io immagino come una categoria costruita e attraversata da profonde differenze, fra l'altro. E a questo proposito mi viene in mente che l'estate scorsa eravamo in vacanza assieme a Ponza e tra un bagno e l'altro tu leggevi Françoise Vergès e io leggevo Rosy Bradotti, leggevo Nomadic Subjects, le letture da ombrellone. E mi ricordo che ogni giorno ti dicevo devi leggere questo, mi sembra che parli del tuo lavoro e ti leggevo qualche frase. Poi insomma devo ammettere che io una volta ripartita da Ponza questo libro non l'ho mai finito, ma quello che mi sembra importante rispetto alla tua ricerca è che Bradotti difende il femminismo della differenza a cui forse ora noi non siamo così legate, ma allo stesso tempo propone una soggettività nomade, una visione dinamica del soggetto per mettere in discussione quello che lei chiama il master subject fallo eurocentrico. E per lei nomadismo significa anche situarsi, parlare come soggetto corporeo fatto di carne e questo è un metodo che rende conto della diversità e della complessità di ogni categoria a partire proprio da quella di donne o di donna. Ed è per questo che vorrei ritornare a uno dei tuoi primi lavori, anzi il tuo primissimo intervento nello spazio pubblico diversi anni fa, perché in questo lavoro metti in gioco il tuo corpo, come poi hai spesso fatto e come continui a fare, e lo fai attraverso un'incursione anonima nello spazio urbano. E già in questa primissima performance lavoravi sull'identità, sulla tua identità e la decostruivi. E in questa performance sei a Londra e ricevi una secchiata d'acqua da una sconosciuta a ogni parola che usi per definirti, a ogni aggettivo. E questo gesto per me indica la violenza di ogni riduzione della soggettività, delle definizioni, delle categorie fisse, descrittive o prescrittive. Il titolo è Untitled, A Stranger, The Water and What I Am ed era il 2012. Lo lanciamo? I am Anna Raimondo. I'm 31 years old. I'm white. I'm Italian. I'm Mediterranean. I'm European. I'm a daughter. I'm a sister. I'm a girlfriend. I'm monogamous. I'm unmarried. woman. I'm a feminist. I'm a Buddhist. I'm an artist. I'm a casual worker. I'm middle class. I'm cold. I am wet. I'm sorry. Thank you. Thank you very much. I am Anna Raimondo. Come dicevi, non siamo mai una sola cosa e tutte le definizioni che ci diamo sono soltanto temporanee e fluide. Io, per esempio, ho sempre pensato, ho sempre preferito parlare di processi di soggettivizzazione piuttosto che di identificazione, perché poi se ci pensi identità rimanda all'idea di essere sempre uguale a se stessi. E ascoltando il lavoro del 2012, che abbiamo appena ascoltato, Untitled, A Stranger, The Water e Montaigne, penso al fatto che io stessa non sono più la stessa di allora e che se dovessi oggi rifare questa performance userei nuovi aggettivi, ne toglierei degli altri, addirittura potrei anche aggiungere un secondo nome. Preferisco pensare che siamo esseri unici e che per esserlo dobbiamo arrenderci a trasformarci. E mi piacerebbe citare un passaggio di un film di Almodóvar, Todo sobre mi madre, e quello che a un certo punto dice una delle sue protagoniste a Grado, cito: una è più autentica quanto più assomiglia all'idea che ha sognato di se stessa. E questo, secondo me, è un processo che dura tutta la vita, no? Io in questo momento sto leggendo l'ultimo libro di Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. E nell'introduzione lui parla delle categorie con cui molti di noi continuiamo a identificarci, cisgender, transgender, non binario, omosessuale, eterosessuale, eccetera, eccetera. E lui ci dice che queste categorie non esistono al di fuori dell'epistemologia coloniale e capitalista occidentale che privilegia le pratiche sessuali che sono finalizzate alla riproduzione della manodopera e dei consumatori. Ma per lui, e lo leggo, queste categorie sono la mappa imposta dal potere, non il territorio della vita. E quindi Preciado insiste sulla complessità della vita e delle sue forme di esperienza. Per lui è il regime politico-visuale della differenza sessuale ad essere completamente inadeguato alla vita. E quindi la nostra domanda potrebbe diventare se può l'ascolto essere uno strumento per decostruire questo regime politico-visuale, l'ascolto che è così pieno di ambiguità, sempre soggettivo e al tempo stesso situato, corporeo, immersivo. Ascoltandoti in riferimento alla citazione di Preciado, mi viene in mente uno scambio recente col mio amico e transattivista Stefan Jacob. Per un progetto in corso qui a Bruxelles stavo cercando un gruppo di donne per l'appunto cis, trans e queer e per accogliere delle narrazioni di genere sulle nostre esperienze quotidiane dello spazio pubblico, al che Stefan da Buenos Aires mi ha scritto e mi ha detto: ma perché non includi anche le persone trans, donna, uomo e le persone intersex? E per stimolare, diciamo, questa riflessione mi ha inviato un video di cui è protagonista, che si chiama Mi cuerpo es mi memoria, quindi il mio corpo è la mia memoria. E per dirvi cosa si vede, appunto c'è Stefan che danza e che a un certo punto parla del suo corpo, che oggi è un corpo d'uomo, e indica per esempio la cicatrice sul suo addome, che è una cicatrice che eredita dal suo corpo di donna, che gli ricorda ogni giorno per esempio l'aborto che ha dovuto fare. Nel libro Preciado parla della sua esperienza di dissidente del sistema genere-genere per fabbricare un corpo che sia una rivoluzionaria, la chiama. Ma mi chiedo se non è un caso che una delle cose più belle che ricorda della sua transizione è la modificazione della voce. E Preciado scrive, lo cito ancora, dice: la voce che il testosterone propulsa nella mia gola non è quella di un uomo, è la voce dell'attraversamento. La voce che treme in me è la voce della frontiera. Preciado usa questa immagine della voce frontiera, che per me risuona tanto e risuona in tante direzioni, ma mi fa anche pensare che la voce è sempre tra, è sempre in between e ha sempre una posizione ambigua tra il corpo e il linguaggio, tra dentro e fuori, fra natura e cultura. A me piace pensare che nell'ascolto, attraverso l'ascolto, possiamo accogliere una forma di promiscuità di genere, accettare l'unicità di chi ascoltiamo senza per forza volerla definire nel binarismo che ereditiamo dall'educazione patriarcale anche più spicciola. Per questo mi piacerebbe condividere un estratto di un lavoro di un'artista sonora brasiliana che amo molto, Mariana Carvalho. Il lavoro si chiama Me alimento de você, che in brasiliano significa mi alimento di te, e quindi risuona anche un po' con la cultura, anche con un tentativo di antropofagia, ma in spagnolo significa mi alimento di voci. La performance è stata realizzata per il momento una sola volta in Spagna e Mariana chiede al pubblico di cantarle in bocca. Il risultato è un incontro tra la voce di Mariana e la voce di un'altra persona, e quindi la creazione di una voce terza nel quale i generi si fondono e fondono. Quello che ascolteremo è soltanto una traccia, una duplicazione sonora della performance, ma spero vi dia comunque un'idea del lavoro. Tú tienes que cantar dentro de mí. Abbiamo appena ascoltato un estratto di Me alimento de você di Mariana Carvalho, che ho avuto la fortuna di intervistare durante il lockdown, e da San Paolo l'artista sonora mi ha confessato di essere stata molto felice di aver potuto sperimentare questo lavoro quando non era ancora pericolosissimo avvicinarsi bocca a bocca. Le bocche sono un po' interdette e questi limiti li abbiamo vissute tutte recentemente sui nostri corpi, sulle nostre bocche e anche sulle nostre voci, e li viviamo ancora. Durante il lockdown i nostri corpi sono stati confinati e separati, la frontiera diventava la soglia di casa, il tesserino sanitario, il privilegio meno di poter restare a casa e proteggersi, che fra l'altro spesso era legato a genere, razzializzazione e classe sociale. E la frontiera è la pelle, non ci possiamo più toccare, è la bocca coperta da mascherina. Io non so voi, ma ho sempre l'impressione che quando la metto la mascherina la mia voce è attutita, che non arriva al destinatario, e quindi lo statuto della voce in tempi di distanziazione sociale continua a preoccuparmi. Si è tanto parlato del silenzio del lockdown, ma io l'ho sempre vissuto come una silenziazione, come una riduzione al silenzio di ogni forma di socialità e di espressione collettiva. E però voglio farvi ascoltare una cosa, la possiamo lanciare? Thank you. diadema? Questo era il mio risado per il primo maggio femminista transfrontiere e volevo farvelo ascoltare e condividerlo con voi perché anche durante il lockdown abbiamo trovato delle tattiche per far risuonare i nostri corpi nello spazio pubblico. E fra queste tattiche, il primo maggio, su chiamata delle Feministas Transfronteristas, abbiamo fatto delle azioni nello spazio pubblico e un risado alle 18 ovunque nel mondo. Ed era come un ensemble di padelle che si chiamano e si rispondono a distanza e che risuonano, o meglio, dissuonano per cercare di alimentare delle forme udibili di dissenso. Parlando di lockdown, in genere quello che dici mi fa pensare a quanto l'ascolto, non solo radiofonico, ma anche con amiche, genitori, parenti, attiviste, artiste, sia stato anche per me il mezzo di sostegno e di cura più importante durante quel periodo. Io ho due tatuaggi che fra l'altro mi ha fatto una carissima amica sul braccio, sullo stesso braccio. Sono due scritte, sono care e cut, quindi cura e ascolto. E non li ho fatti insieme, non li ho fatti nello stesso momento, ma vi dico che sicuramente sono legati. E questo potrebbe forse portarci lontano. Ma secondo me hai ragione, durante il lockdown ci sono stati veramente tanti modi in cui le voci si sono cercate, incontrate anche a distanza, e per me la radio è stato un mezzo molto molto potente per farlo, e forse uno degli incontri più forti che ho fatto in quel periodo è stato quello con Maria Galindo, che è un'artista e attivista anarcofemminista tra le fondatrici del collettivo Mujeres Creando alla PAF. Non riesco mai a pronunciare Mujeres, ma insomma ci siamo capite, credo. Ed è vero che con la mia compagna di lockdown, Loreto Martinez Troncoso, l'abbiamo chiamata l'8 maggio a mezzanotte, quindi 2 mesi dopo l'8 marzo, per fare una trasmissione radio, fra l'altro su Pinod, che è una radio collettiva e aperta come Radio Virus. E lei ci ha detto una cosa molto forte per me, che grazie alla pandemia potevamo ritrovarci alla stessa tavola, nella diversità delle nostre condizioni e delle nostre geografie politiche, e che forse non ci saremmo potute trovare alla stessa tavola in un'altra condizione. E in quel momento la cosa più urgente per me era capire come tornare a quel corpo collettivo e eterogeneo che avevo sentito così forte per lo sciopero transfemminista dell'8 marzo, e come fare il ponte tra quell'energia, tra quelle voci, tra quei cori, tra quella potenza collettiva e questo dopo che stiamo vivendo, e come riprendere controllo dei nostri corpi, perché ora diventa ancora più urgente riappropriarcene come luogo di socializzazione, di piacere e di benessere e anche dello spazio pubblico. Perché anche lo spazio pubblico e la pianificazione urbana non sono neutri o innocenti, anzi, sono sistemi che riflettono, riproducono e rafforzano le relazioni sociali dominanti e anche il sistema patriarcale, ovviamente, e forse ora anche di più. E su questo è vero che abbiamo lavorato entrambe, e soprattutto tu ci hai lavorato tanto da vari anni. E penso che tu lo abbia in qualche modo già detto, ma effettivamente da un'esperienza semplicemente percettiva, lo spazio pubblico e la pianificazione urbana non sono mai neutri, e quindi ovviamente io mi chiedo e domando per chi e da chi sono concepiti gli spazi urbani, e questa è una domanda forse un po' retorica, come lo spazio pubblico nelle sue architetture e nei suoi comportamenti quotidiani ci riporta alle nostre posizioni di genere e di razza, e allora come reagiamo da sole o insieme? Dal 2017 cerco di aprire queste ed altre domande a persone che si identificano come donne in geografie e contesti molto diversi, con il progetto che si chiamava Nuove Frontiere del Benessere dell'Ecosistema Vaginale. Vedete che sono molto attaccata a questa parola vagina, perché i miei fratelli sono ginecologi e mio padre anche ginecologo, forse è quella la ragione. Comunque, ritornando al progetto di Nuove Frontiere del Benessere dell'Ecosistema Vaginale, oggi è diventato Queer Codes, perché anche i titoli hanno il diritto di trasformarsi, ed è un progetto basato su interviste e registrazioni sonore dove cerchiamo di raccontare luoghi più significativi da un punto di vista multiplo, plurale, di genere. La prima tappa è stata a Roma ed è stata curata da Lucrezia Cippitelli, che spero sia all'ascolto, e anche se non è all'ascolto la salutiamo lo stesso perché le vogliamo molto bene. E nel lavoro, quindi di Nuove Frontiere a Roma, si ascoltano i luoghi più friendly, più accoglienti, e quelli più ostili, raccontati dalle donne che ho intervistato. Ma oggi qui vi faremo ascoltare l'introduzione, dove insieme attiviamo un'evocazione del lo stesso, Nuove Frontiere del Benessere dell'Ecosistema Vaginale, nel caso in cui non lo ricordiate, e le definizioni, le nostre definizioni di cosa significa per noi essere donne. Ascoltiamolo insieme. Ti racconterò questa storia di cui ho perso la memoria e allora me la invento e... Nuove frontiere dell'ecosistema del benessere vaginale. Nuove frontiere del benessere dell'ecosistema vaginale. Nuove frontiere del benessere dell'ecosistema vaginale. Non mettere mai in vagina niente che non metteresti anche in bocca. Che per me a 16 anni era, vabbè, tipo... Nuove frontiere del benessere, dell'ecosistema vaginale. A vagina? No. Adesso mi viene in mente il fucsia. E i colori sono pop e i colori sono femminili. L'ecosistema vaginale è il nostro ecosistema. Diciamo l'origine nostro, ma anche il nostro rapporto col mondo, credo. Se abbiamo i chakra allineati, sicuramente i nostri orgasmi sono migliori, piuttosto che se stiamo chiuse o cupe. Le nuove frontiere, secondo me, sono quelle che dobbiamo aprire ogni giorno e quelle che dobbiamo scoprire. Mi chiudo in bagno e provo a fare questa cosa. E ci sono pure mezza riuscita, quindi proprio sperimentazioni X. Come la usi, penso, no? Sì, significa una ricerca costante. Sono più o meno una ventina d'anni che sono al corrente di essere gender fluid. Poi non è che ne parlo, eh. Non siamo come italiani, ne parlano. Allora, la nuova frontiera del benessere dell'ecosistema vaginale è lo squirting. Insieme al massaggio pelvico, che sono due cose fondamentali. Ah, l'ecosistema vaginale. Quando c'è il benessere dell'ecosistema vaginale, va da paura. C'è una fotografia in cui io sono raffigurata come se fosse un manifesto femminista. C'è una faccia vistosamente da passionaria, la divisa d'osservanza, no? Cioè, avevo un caftano lungo, anche lo stile, anche il look, no? aveva la sua importanza naturalmente, perché era un rifiuto dei canoni. Le mani in alto sopra la testa con il gesto femminista. Tipo per esempio il gesto di bruciare il reggiseno, no? Io credo che in questo momento invece quello che diventa politicamente fondamentale è recuperare il reggiseno ed esibirlo, non bruciarlo. Dei bambini mi chiedono se sono maschio o femmina. Io ho quasi 50 anni e quindi secondo me non sono più il bersaglio degli uomini. Non saprei dirti che cosa penso di essere. Mi sono convinta di essere stata, non so in quale altra mia vita precedente, una balena. In cyberspazio nessuno sa che sei un cane. Forse siamo più allenate anche rispetto ad altre, all'altro sesso, ad altre categorie, a pensarci sempre che insomma, in qualche misura dobbiamo sviluppare delle strategie, sì. E quindi quando sei bambina ti dicono sempre questa cosa, no? non parlare con gli sconosciuti, se un signore viene a dirti delle cose e soprattutto ti dice di non dirlo a tua mamma, diglielo subito a tua mamma. Io mi ricordo tutta questa cosa, che dovevo aspettare che sì, che mio amico, fidanzato, amica che mi accompagnava a casa doveva aspettare che io aprissi il portone, entrassi e chiudessi il portone. È una concentra, è come se fossi concentrata come un animale che con le orecchie tese a sentire, a cercare di percepire se c'è il pericolo o non c'è, o è solo dentro di te. Non lo so, saranno delle antenne. Si percepisce, io la percepisco qua dietro al collo e dico questo posto non è il massimo, qua mi devo proteggere. Mi sentivo seguita, era Piazza Vittorio, stavo attraversando da est a ovest. Un po' rallentavo, un po', insomma, non sapevo bene come gestire la cosa, però non volevo cambiare la mia direzione. Quindi alla fine mi sono ritrovata a camminare con questa persona, con quest'uomo, e ci siamo messi a parlare e poi lui se n'è andato a termine e ho continuato la mia strada. Perché a un certo punto gli ho detto, oh, o stiamo facendo la stessa strada oppure mi stai seguendo, due sono le cose. Attraversavo, magari via il Babuino, via il Corso, il pomeriggio a Roma, tirando dritta, camminando velocissima, e mi ricordo questa cosa di avere sempre i pugni chiusi, perché comunque avere i pugni chiusi è un po' una cosa che dici adesso sto vigile forte, mi guardo intorno. Sei in guardia, no? Quindi sei pronta a scappare o a correre o a difenderti in qualche modo. Se proprio non vedo che c'è qualche posto dove posso andarmi a ficare, un ristorante, un bar, un caffè, un qualcosa, camminare con i tacchi alti per la strada faceva perdere il controllo sul territorio e quindi era un'esperienza estremamente stimolante. Io mi ricordo l'affascinata dei San Pietrini e tutto quello che, c'era di mezzo ai San Pietrini, quindi non so, io ho delle immagini di entrare in un ruolo di pericolo, di quasi come se fossi un animale predato nella giungla. A Carnevale, a Piazza Navona, con tutti i coriandoli nei San Pietrini colorati. Roma è una città, la Roma antica soprattutto, è una città da questo punto di vista antifemminile, perché camminare sui San Pietrini è un'esperienza abbastanza terrificante. Passavamo camminare nei mercati, anche rionali, in centro, e vedevi nei San Pietrini la verdura, le carote, la buccia, le cose. Più lenta riesci a vedere. Vedi le persone e le persone ti vedono. Io trovo sempre i soldi per terra in bicicletta. Quando vai in bicicletta vai più lento. Io dico che alla fine in realtà vai alla giusta velocità a cui deve andare una persona, un essere umano. Mi fa molto femmina la bicicletta, non mi... Non saprei spiegarti, ma... Angelo, onda nascosto le ali. Questa era Nuove frontiere del benessere dell'ecosistema vaginale a Roma 2017. E in realtà anche io voglio invitarvi a esplorare lo spazio urbano di notte, da sole, utilizzando degli zoccoli come strumento. Tra qualche giorno troverete sul sito di In Between la mia score e se volete potete provare a eseguirla. E la score vi invita ad ascoltare le nostre pratiche spaziali e la nostra relazione all'alterità urbana, a far risuonare e vibrare le nostre differenze. Qui oggi vi anticipo solo la fine e forse la leggo in inglese perché l'ho scritta in inglese e devo ammettere che tradotta in italiano mi suona un po' strana. Listen to the city as an ever-changing polyphony generated by a plurality of moving bodies. Listen to its dissonance. Amplify its difference. Walk at your own pace. Walk so loudly that the bottom of your feet become a percussion instrument. Play the city. Dance at the rhythm of your steps. Rewrite the city with your body, with your sounds. Project your presence in space. Hum, if necessary. Sing or laugh out loud. Wear your lipstick if you like it. Smile at everyone you meet. Never try to silence yourself or go unnoticed. Be visible, be audible, vibrate, raise sound. Ascoltandoti penso al fatto che da piccole, no, ci educano a non far rumore, ad essere discrete, a non guardare gli sconosciuti per strada, e addirittura tu inviti noi donne a bucare questa invisibilità nel spazio pubblico, soprattutto la notte, ci inviti a rendere ancora più forti i nostri passi, le nostre presenze, a cantare in strada, per esempio. E quindi immagino il suono di questa score che tu proponi. E immagino che l'ascolto che possa generare è un ascolto trasgressivo, perché rende in qualche modo udibile il limite del limite normativo. In questo senso per me è un'azione che produce una forma d'ascolto di genere, e questa è una definizione che non esiste, almeno io non l'ho trovata. Un giorno ci ho pensato, pensando appunto da produttrice di suono, femminista, persona che lavora con l'ascolto, ho detto ma perché non proviamo a parlare di ascolto di genere? E in realtà, quindi, non esistendo, cerco degli esempi e delle pratiche come quella che proponi tu per poterne esplorare il senso, e sono molto contenta di poterlo fare con te e con voi all'ascolto oggi. Bah, sì, un po' come dici, per questa score io ovviamente sono partita dalla mia esperienza, ma poi ho letto anche tutta una serie di blog e forum dove le persone che subiscono il sessismo si scambiano consigli e tattiche per rientrare la sera, sentirsi al sicuro, ed è vero che tante di queste tattiche sono uditive, e quindi volevo un po' giocare a rovesciare le categorie di visibilità, invisibilità, silenziazione e risonanza per reclamare la città e reclamare la notte. E poi il suono trasgredisce sempre i limiti tra spazi pubblici e privati, e sappiamo che le donne e le minoranze di genere sono tradizionalmente assegnate agli spazi privati. Quindi sì, è un ascolto di genere, però è anche vero che in questo programma volevamo provare ad andare oltre i generi, ad attraversare i generi attraverso l'ascolto, e per me l'ascolto è proprio questo, è vettore di complessità e pluralità, e quindi forse per me può aiutarci a decostruire le gerarchie, le dicotomie, i binarismi che sono così radicati nel nostro pensiero, e quindi anche tanti dei discorsi normativi e delle relazioni di potere che ne sono derivate. E per te o per voi? Guarda, ti rispondiamo con un riferimento comune. La prima voce sintetica genderless, quindi senza genere, creata da una startup danese nel 2019 che si chiama Q. L'intenzione di questa startup era quella di affrontare gli stereotipi di genere neutralizzandolo il genere. Vorrei farlo ascoltare anche al pubblico dalla centrale FIES e su Radio Virus per sapere, per, insomma, immaginare cosa ne pensano. Pensino, ecco, ho fatto l'errore che avevo detto che sarebbe arrivato. Ascoltiamo Q Voice. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender. Abbiamo appena ascoltato quindi Q Voice, per la quale hanno fatto un lavoro veramente matematico per equilibrare le frequenze della voce maschile e femminile. Ecco, rispondendo a quello che tu ci chiedevi rispetto a quanto l'ascolto possa attraversare i generi, io penso che per esempio una soluzione del genere sia ancora più problematica del problema, cioè una voce neutra secondo me non fa che contribuire al problema. Crediamo invece che sia l'atto di ascolto in sé l'intenzione di aprirsi alla complessità di ogni voce e di ogni suono a poter eventualmente destabilizzare gli schemi binari e normativi. E, per questo preferisco forse chiudere con un'altra voce, quella della cantante Maryam Sweat, che è un'artista di Plaza Jemaa el-Fna a Marrakech, una piazza degli artisti, che è un'artista che ho incontrato per un progetto in corso e che appunto vorrei veramente condividere con voi ora. مرحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو ولو ولو على اللحب المشالي تيدن دندني نادم نادم نادم ندندني غير خذوني واير خذوني واير خذوني واير خذوني واير خذوني الله يرخذوني انا ما صابر على اللي شاغر خذوني واير خذوني الله يرخذوني انا ما صابر على اللي مشى وغير خذوني القلب بيد الحداد والحداد ما يشق عليه وين ما صابر على اللي مشى وانا ما صابر وانا ما صابر على اللي مشى انا ما صابر Era Maryam Sweat e con questa voce incarnata arriviamo alla fine di Ascoltare Attraverso, almeno per stasera, perché è solo l'inizio e noi continueremo ad ascoltare per attraversare, perché per noi è quasi un percorso, no, è un percorso personale e quindi politico. E siamo ai ringraziamenti. Allora, prima di tutto grazie a Claudia D'Alonso per averci invitato a In Between. Ancora una volta non vi ascoltiamo, ma un grande applauso a Claudia, per favore. E grazie a Federico Aldovisi e Federico Nerotti, che sono la regia di Radio Virus, la web radio di Macao nata durante la quarantena a Milano e dai semi di Radio l'8 marzo. Grazie. Altro grande applauso, altro grande applauso. Scusate, qui e entro... ovviamente grazie. Vai. Scusate, forse ci siamo sovrapposte, ne entro anch'io. Grazie davvero a questo Anna Raimondo ed Elena, Elena Anna Raimondo, e grazie davvero e ringrazio anch'io i due Federico, perché insomma la gestione della complessità tecnica di questa cosa, che spero sia arrivata poco, in realtà è stata altissima, tra l'altro anche per svelare un po' il dispositivo, il medium, gli strumenti che stiamo usando, una parte interessante di questo scambio che in genere si usa meno in radio perché c'è il regista che ti fa segno, è la persona di fronte, è stata una parte che a un certo punto avevamo anche quasi pensato di condividere con voi, che è la chat sulla quale mi avete visto scrivere, in cui ci siamo dati i tempi su ogni passaggio, e devo dire che è stato, a proposito di spazi intermedi, comunque almeno per me, non so per voi, parlo di voi che siete su Mumble, uno spazio di relazione, poi appunto il senso della presenza è dato anche molto dalla relazione, dalla vicinanza e dalla condivisione di qualcosa che per noi è stato appunto contenuto in una room digitale, poi quando appunto si parla di cosa è vero, cosa è reale, cosa non è reale. Però a proposito di corpi reali, voci reali, se ci sono delle domande io passo volentieri tra il pubblico, ci sentirete, non so come ci sentono in radio così, come mi sentite con la mascherina? Un po' più bassa ovviamente, come dicevo. Ok, no, se ci sono delle domande posso insomma passarvi il microfono, no, nel senso, vi indirizzo il microfono, quindi avete modo di intervenire. Se ci sono domande anche rispetto appunto a questo triade Anna, Raimondo, Elena, se insomma ho alcune delle domande che sono emerse, gli interrogativi che sono emersi, che sono ovviamente molto complessi, però in qualche modo se poi li riportiamo alla nostra accettiamo personale. Anna, accettiamo anche i complimenti, eh. Soprattutto i complimenti. Ci sono domande? C'è una domanda, riconoscerete una voce. Ciao, sono Bertram. No, è solo una domanda, allora, perché non so, noi qua siamo praticamente dentro un bellissimo spazio di legno, tutti in cerchio, ci sono seduti all'interno, no? Fuori ci sono un po' di altre persone. E come contesto d'ascolto, visto che è una cosa la radio, è già abbastanza strano e diverso rispetto alle cose che si fanno di solito, no? Nel senso che mentre voi parlavate, alcune persone sono insieme, sono congiunte, altre sono da sole, però diciamo abbiamo fatto un mix tra l'esperienza ascolto radio tradizionale, almeno quello che di solito si fa quando quando si è da soli in qualche modo, e la dimensione invece che c'è quando si va a vedere qualcosa. Però noi abbiamo passato un sacco di tempo comunque a guardarci in qualche modo. Poi è strano, ovviamente abbiamo le mascherine, quindi una delle prime volte che in tanti torniamo in uno spazio condiviso con altri corpi, eccetera. Ma voi invece come siete messe? Nel senso, perché state parlando da posti diversi, cosa fate? Allora, io sono alla mia scrivania e cerco di barcamenarmi tra il microfono, ovviamente un conduttore che abbiamo in comune, un Google Doc, e Moodle, quindi l'applicazione, e cerco di accendere e chiudere il microfono quando devo farlo, grazie alle indicazioni che mi danno. E niente, qui a Marsiglia c'è un gran caldo, ovviamente non ho la mascherina perché sono in casa da sola, e quindi ho il ventilatore acceso, ma credo che non si senta, questa è la mia situazione. No, per quello che mi riguarda è un po' un setting simile a quello di Elena, e aggiungerei che tutti i momenti, che non sono stati tanti ma ce ne sono stati, in cui invocavamo veramente la vostra presenza, è proprio quello di ricordarci la dimensione collettiva di tutto quello che stiamo facendo, perché è vero che insomma il disco era quello di sentirmi un po' alienata, parlo per me, di sentirmi un po' alienata durante questo dialogo, perché appunto non vedo Elena, non vedo Claudia, non vedo voi, però ancora una volta grazie all'ascolto insomma abbiamo riattivato questo momento relazionale. E poi, come diceva Claudia, anche la chat è stata fondamentale, perché comunque era una comunicazione parallela, integrata diciamo a quello che avete ascoltato, in cui ci facciamo delle battutine, a parte diciamo le parti veramente tecniche e funzionali, c'era anche questo scambio con i Federici e con Claudia, che ovviamente tramite Elena. E forse io aggiungo solo una cosa, una citazione di un collettivo di attivisti radiofonici che io amo molto, si chiamano Ligna, e che dicevano: il broadcast non è una costellazione ma una molteplicità di costellazioni. E in questo caso forse è stato più vero del solito. Io riapro il microfono, vi chiedo, i due Federico mi sembra non si vogliano manifestare, o volete farci un saluto, dirci qualcosa rispetto a Radio Virus? Ah no, c'è una domanda dal pubblico, allora forse riesco ad arrivare, scusate. Tengo io il microfono. Ok. Sono Giuseppina, ciao, piacere. No, la mia domanda è una domanda di natura tecnica: come hai realizzato i vaginal speech, cioè proprio tecnicamente? Anna, Raimondo, sì. Elena. Praticamente, allora facciamo rispondere una delle tre, che insomma, praticamente quello che ho fatto è ho usato un idrofono, L'idrofono sono dei microfoni che appunto servono a registrare, a rendere audibili attraverso le vibrazioni delle superfici fluide. Quindi ovviamente sono molto adatti alle registrazioni in acqua in generale. Ora, per fare questa registrazione io avevo intenzione di usare ovviamente un microfono interno e quindi mi sono detta che era il microfono più giusto perché appunto rendeva udibili queste vibrazioni. E quindi ho messo un preservativo al microfono che ha anche una forma abbastanza fallica, lo devo dire, perché è così, e l'ho inserito e poi ho cominciato a cantare, a muovermi per casa, cioè, ho fatto molte azioni perché avevo proprio intenzione di vedere cosa succedesse mentre vivo la mia vita normale, ecco, questa idea di far esprimere la vagina. Chiedo se ci sono altre domande. Ricordo anche che invece per il pubblico che ci sta seguendo, come dire, da altri altrove, possono commentare l'ultimo post di Facebook sulla pagina di Centrale Fies, scrivermi il commento, io lo leggo in qualche modo, insomma, lo rendo sonoro, se ci sono domande. Se c'è qualche altra domanda del pubblico in sala, altrimenti io vi chiedo una, diciamo, una cosa un po' di proiezione, nel senso che questo invito, adesso posso parlare così, questo invito all'interno della rassegna di In Between è stato una sorta di momento ulteriore di aggregazione, ogni, insomma, di incontro di una ricerca che voi avete in corso da qualche anno, quindi, come dire, una parte quasi di laboratorio, aggregazione di questo percorso, ma so che avrete degli altri step nei prossimi mesi, se, insomma, ci raccontate che forma prenderanno o se in qualche modo, in che modo si collegano a questo dialogo. Io Anna, in realtà, io Anna Raimondo, adesso ho svelato le identità, identità fluide comunque, e in realtà abbiamo veramente una relazione che va molto oltre la sfera della condivisione di progetti e di come dire, di anche intenzioni teoriche. Abbiamo una condivisione che è del livello appunto della relazione di amicizia, di amore, di condivisione di momenti di vacanze, eccetera, eccetera. E quindi, cioè, è un dialogo che è in corso e che a volte diventa pubblico, ma che in realtà poi può svolgersi in una spiaggia a Ponza dove ci scambiamo delle letture, ci scambiamo delle cose. Abbiamo già fatto una trasmissione radiofonica assieme dove appunto esploravamo il percorso di Anna, e una delle forme che prenderà la nostra collaborazione è il fatto che il progetto di cui Anna parlava, Nuove Frontiere del Benessere dell'Ecosistema Vaginale, da tanti anni, da un paio d'anni vogliamo provare a farlo a Marsiglia e probabilmente, no, probabilmente Anna verrà in residenza a Marsiglia a settembre, e quindi il nostro dialogo continuerà anche rispetto a questo progetto. Non so se Anna vuole aggiungere qualcosa. No, penso che sì, hai detto tutto. Diciamo che infatti è abbastanza allucinante come ci conosciamo da qualche anno ormai, e infatti, cioè, ci ritroviamo con dei riferimenti molto simili in momenti magari non uguali, ma abbiamo veramente uno scambio molto, molto profondo, anche molto intuitivo. Questa è la cosa molto bella, secondo me, poi dello scambio anche, diciamo, tra virgolette, più politico e, insomma, professionale. Così, non so se... sì, penso che Elena ha detto tutto. Ok, allora io direi chiudiamo la diretta. E vabbè, io ringrazio tutto il pubblico che ci ha ascoltato da qui e, insomma, anche gli sguardi che, insomma, in qualche modo cercheremo di mandarvi come documentazione, e il pubblico che ci ha ascoltato da Radio Virus e da In Between. Ringrazio ancora Fias e Radio Virus e Anna, Elena e Raimondo. Un abbraccio a distanza. Ciao! Ciao! Ciao! Grazie! Ciao! Grazie! Ciao! Grazie. Ciao! Ciao.